premetto subito che il discorso sul bambino è troppo stupendo per metterlo lì così. Ci sarà altra occasione per parlare del bambino. Premetto però questa osservazione al Vangelo. Il brano si compone di due parti ben distinte. La prima è la più antica predizione della morte violenta di Gesù, della risurrezione. La seconda riparla un insegnamento che Gesù dà ai suoi discepoli. Essi però non comprendevano e andavano dal Signore a chiedergli spiegazioni. Punto interrogativo per tutti noi. Paura di capire? Abbiamo paura di capire la verità. Ma una paura di chiedere perché non ne condividono le conseguenze, infatti. Per via andavano discutendo chi fosse il più grande. Piccola riflessione immediata. La risposta di Gesù è lineare e si fonda su una distinzione fra onore di fronte a Dio e onore di fronte agli uomini, alla stessa parità. Dio è esigente con il figlio dell'uomo, come può esserlo con i suoi discepoli. Ma non si dimentica mai di loro, tanto che al terzo giorno, quando le speranze sembravano mortificate definitivamente, li rimette in piedi, facendoli sognare, facendo risorgere in loro speranze nuove. Che cosa mi colpisce in questo Vangelo? Provo a dire due piccole cose. Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo, il servo di tutti. Chiaro che il più grande è chi non serve dell'altro, ma lo serve, chi non prende vita da altri per i suoi scopi, ma il suo scopo è la vita di qualcuno, chi saluta anche quelli si fa fatica a salutare. Però che mi colpisce il verbo servire. Riferimento personale. Quando mi ha ordinato prete, mi ha detto che ero al servizio. E io dico, sono al servizio. Poi, lungo la via, imparerò chi devo servire. Però servire è un verbo dolce, molto dolce, perché affascina, però anche pauroso insieme. Infatti la nostra tendenza è quella di ottenere, possedere, essere migliori, non certo essere servi. Poi dopo l'età della vita ti fa dire che sei un mendicante e questo essere mendicante ti fa per forza aver bisogno degli altri. E fortunati loro che sono capaci di aiutarti e quindi ne ricevono. E poi c'è che essere servo di tutti, senza limiti di persone, di gruppi, di etnie, senza esclusioni, senza preferire i poveri buoni e i poveri cattivi. La novità di Cristo parole mai pensate, mai dette, liberate per ora per raggiungere i confini del mondo intero. Sono quelle espressioni così profonde, così abissali, e ti conquistano. Oppure le cancelli per paura che siano loro ad abbattere il tuo sistema di vita. Aggiungo, per finire, cioè, non potendo scrivere, raccolgo materiale. Gesù, a me ha dato questa impressione, per indicare gli eventi che stanno per abbattersi su di lui, l'espressione essere consegnato nelle mani degli uomini, ma era venuto per quello, per essere con gli uomini, cioè colui che ha affidato la sua vita nelle mani di Dio dovrà finire la sua vita stessa in balia degli uomini. Diciamolo così, frettolosamente. La fede, come libero affidarsi al Signore, consente di avere il fidarsi anche degli uomini. Non c'è distinzione. Se non ti fidi degli uomini, Dio è muto, o non conta niente. Se Dio conta, vuol dire che contano anche gli uomini e le donne, naturalmente. È vero però che l'annuncio da parte di Gesù alla sua prossima, al prossimo destino segna un momento critico nel rapporto con la sua prima comunità dei discepoli. E questo diviene motivo di scandalo. I discepoli non comprendono la sua parola. Non solo, ma hanno paura di chiedergli spiegazioni. Io dico a me stesso, ma per dirlo a alta voce, meglio l'incoscienza che la dolorosa, sincera verità. Dostoevskij qui insegna molto. Meglio l'incoscienza, meglio non sapere. È pericoloso interrogare la propria fede, interrogare il proprio stile di vita. E la paura è la più efficace custode della propria debolezza e delle becere abitudini della vita. La comunicazione tra i discepoli e Gesù è ostruita. Essi non capivano e non rispondevano alle sue domande, quelle di Gesù. Per paura non lo interrogavano, per vergogna o per cattiva coscienza. E dentro in questa incomprensione, non comunicazione, faccio notare, dentro in questa incomprensione, in questa non comunicazione, e qui siamo esperti tutti quanti, si crea lo spazio della competizione, lo spazio del primeggiare, dell'imporsi, che non è soltanto tra me e qualcuno. Voi pensate si parlava civiltà cristiana, dottore, si può dire civiltà cristiana? Beh no, religione superiore, il mio Dio superiore al tuo, Va bene. Questo è il punto di chiarezza che Gesù fa. Ho detto che sui bambini avevo qui un po' di note, ma sarebbe troppo lungo stare a... Gloria a Dio nell'alto del cielo.